America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, da New York Mario Platero. Quella che avete appena ascoltato è la voce di John Kennedy, 25 gennaio del 1961, un anno esatto ieri, fu la prima conferenza stampa in diretta televisiva di un presidente americano. Kennedy parlava di Unione Sovietica, di piloti ribellati, ma anche, come avete sentito, dei problemi delle famiglie americane, un tema caro a Barack Obama, che ieri, quasi 50 anni dopo, affronta anche lui i problemi delle famiglie della classe media e annuncia dalla Casa Bianca iniziativa per alleviare le difficoltà economiche. Un assaggio di quel che dirà domani nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione, un discorso che pronuncerà davanti alla nazione, al Parlamento riunito in seduta plenaria. L'appuntamento è chiave per il rilancio della sua credibilità politica. Their stories are why Joe and I ran for this office. To reverse those trends, to fight for the middle class. Eccolo dunque Obama, ieri ha parlato alle famiglie, ognuna avrà un credito fiscale per l'assistenza ai bambini di $900 all'anno, ha parlato ai giovani, chiede dilazioni per i debiti da ripagare allo Stato, debiti contratti per pagare, per far fronte alle rette universitarie, infine promette fondi per l'assistenza agli anziani, in totale 2,7 miliardi di dollari, famiglie, giovani, anziani, ma i repubblicani non ci stanno. John Boehner, capo della minoranza repubblicana alla Camera, accusa Obama di propaganda e di arroganza. It's that kind of arrogance that has the American people about ready to pull their hair out and about ready to throw every Democrat out of here. Ma Obama risponderà a Boehner mercoledì, proporrà un pacchetto per l'occupazione, 120 miliardi di dollari in agevolazioni fiscali per aziende che assumono, attaccherà di nuovo le banche, tasse e limiti alle attività operative, messaggio populista oltranza, dunque, perché il discorso del presidente ha un obiettivo, deve rilanciare la credibilità politica della Casa Bianca in vista delle elezioni del prossimo novembre e in vista già del 2012, quando il presidente dovrà essere confermato alla Casa Bianca nella solita bagarre elettorale. Passiamo al mercato. Wall Street apre fra un paio d'ore, futures stabili, un po' come ieri, dopo le perdite di 500 punti in tre giorni della settimana scorsa. Aiuta la notizia che Ben Bernanke, governatore della Banca Centrale, dovrebbe farcela al Senato. Aiuta anche la certezza che tra oggi e domani la Fed confermerà la politica dei tassi di interesse molto bassi. Buona notizia aziendale, utili della Apple in rialzo del 50%. 3,38 miliardi di dollari è il miglior trimestre della sua storia grazie alla genialità di Steve Jobs, alle vendite di iPhone 8,7 milioni di pezzi raddoppiate dall'anno scorso e di computer Macintosh più 33%, 3,36 milioni di pezzi. E passiamo a un tema polemico e triste, passiamo a Haiti. Quello che avete ascoltato è il tremore del terremoto ad Haiti ed è polemica oggi fra Italia e Stati Uniti, o meglio fra Guido Bertolaso e Stati Uniti. Il capo della protezione civile ha accusato gli americani di ostacolare gli aiuti e di essere isolati dagli altri. Imbarazzo, Franco Frattini e Hillary Clinton si sono visti proprio ieri a Washington, era un incontro già programmato, il nostro ministro ha parlato con il suo interlocutore di Afghanistan e di altre questioni internazionali, ma poi ha preso le distanze da Bertolaso e la gaffe diplomatica è rientrata. Se non che si è aperto un altro problema, sulla questione sono saltati i media americani, abbiamo con noi in linea il ministro Frattini, ospite di America 24 da Washington. Buongiorno ministro, grazie per essere con noi. Le leggo cosa dice per molti siti internet, giornali, reti televisive, Fox News. Funzionario italiano, titola la Fox, aggiunge l'insulto ai danni e poi riferisce le parole di Bertolaso sulla dimostrazione patetica degli americani. Ha un commento per noi. Ho lasciato che evidentemente si confermasse da parte del governo italiano la piena soddisfazione per la cooperazione con gli Stati Uniti d'America, con la leadership garantita dal presidente Obama dall'ex presidente Bill Clinton e la volontà italiana del governo italiano di cooperare fortemente con questa strategia. La signora Clinton molto carinamente ha liquidato queste battute dicendo ma sì, insomma, è come un po' quando si parla il lunedì mattina dei risultati delle partite di calcio della domenica, quindi è stata estremamente gradevole nel non sottolineare queste battute. Ecco, però se Bertolaso deve lavorare con gli americani a Haiti, ma non c'è forse un dubbio sulla sua credibilità a questo punto nel lavoro con loro? Pensa che possano andare avanti bene? Cosa suggerisce? Ma io credo che gli americani sappiano che il governo italiano si è espresso nel modo in cui io mi sono espresso e questa sarà comunque la linea del governo italiano. Noi metteremo a disposizione un'expertise, le capacità tecniche che certamente Bertolaso ha dimostrato molte volte e evidentemente gli americani saranno rassicurati dal sapere che ovviamente la linea del governo è quella che io ho espresso. Bene, cerchiamo adesso una voce neutrale. Abbiamo trovato quella di Claudio Gatti, inviato del Sole 24 Ore, è stato ad Haiti e appena rientrato ieri. Claudio, è un problema strutturale o è un problema degli americani questo del coordinamento degli aiuti? Non c'è dubbio che c'è un problema di logistica. Gli aiuti non stanno arrivando in città, arrivano in aeroporto e si fermano come in un grande imbuto, ma è un problema che riguarda le organizzazioni non governative, riguarda le organizzazioni multinazionali dell'ONU e riguarda anche gli americani. Io non ritengo che sia però legittimo puntare il dito sugli americani, perché è un problema che stanno avendo tutti. Claudio, parliamo del futuro. Qualcuno ha detto che forse c'è una grande opportunità in questo progetto di ricostruzione. Questa può essere un'opportunità, da questa tragedia può nascere un'opportunità purché tutti la sappiano cogliere, nel senso che gli haitiani devono cercare di smettere di gestire i propri privilegi e gestire il proprio paese. La comunità internazionale deve essere più attenta a non contribuire con le proprie politiche a perpetuare questi privilegi o a creare forme di assistenzialismo che non favoriscono la crescita del paese. Claudio, puoi darci un esempio di umanità in questa tragedia? L'esempio è di quello che era la mia guida e traduttore, Gaston, che è riuscito a fare in modo che si riaprisse un centro medico con l'aiuto dell'ospedale di San Damien, che è un ospedale italiano finanziato dalla Fondazione Rava, e che sta creando da quel centro una sorta di punto di riferimento sociale della zona, in cui la stessa protezione civile italiana si sta impegnando a dare una mano. Ci sono molti altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su America 24, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ecco un paio di anticipazioni. La Carolina del Sud vuole la sua Statua della Libertà, ma in versione maschile. Il progetto, delle stesse dimensioni dell'originale, attende il via libera delle autorità a Charleston. Incidente al Metropolitan Museum di New York, una turista è scivolata trascinando con sé una delle tele più famose di Pablo Picasso. Risultato, uno squarcio di 15 centimetri che dovrà essere riparato prima della retrospettiva di aprile dedicata al grande pittore spagnolo. Ed eccoci al finale, alla nostra canzone del giorno. I New Orleans Saints si sono qualificati al Super Bowl per la prima volta nella storia. La finalissima del campionato di football americano si giocherà il 7 febbraio a Miami contro gli Indianapolis Colts. I Saints hanno vinto domenica contro il Minnesota al Superdome a New Orleans, appunto lo stadio devastato nel 2005 dall'uragano Katrina. E dunque dedichiamo a New Orleans la canzone del giorno, The Saints Are Coming, in una interpretazione dei Green Day e degli U2 del 2006 per ricordare le vittime del disastro. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.